Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e soprattutto buona domenica a tutti da parte mia. Benvenuti a Magazine 24, appuntamento la domenica, ma anche il sabato, con i magazine, con le riviste, con i mensili italiani e stranieri che trovate in edicola. Voglio cominciare guardando un po' al passato questa mattina. Lo faccio con Focus Storia. Già vi ho citato nella puntata di ieri un passaggio, un lavoro appunto che trovate sul numero di maggio. È stato fatto, viene presentato in questo numero, un bel lavoro sul risorgimento, sulla storia d'Italia, e tra cui due pagine di curiosità che immagino siano sconosciute ai più. Ad esempio, il famoso incontro di Teano, così come ce lo hanno insegnato appunto a scuola, tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, non sarebbe affatto avvenuto a Teano. Lo leggo appunto da Focus Story. Il 26 ottobre 1860 Giuseppe Garibaldi, che risaliva da sud dopo lo sbarco in Sicilia, e Vittorio Emanuele II, calato invece dal nord Italia, si incontrarono suggellando la conquista del centro e del sud Italia e la loro alleanza. Sui libri di scuola lo chiamano incontro di Teano e così infatti lo abbiamo studiato pressoché tutti, in omaggio a una tradizione che colloca l'evento presso il ponte di Caianello nel comune di Teano, che sta in provincia di Caserta. Ecco, adesso io non vorrei, per carità, avviare una disputa tra comuni, però vi devo segnalare che su Focus appunto ci dicono che le fonti fanno pensare che non si siano incontrati lì, ma che si siano incontrati invece a Taverna della Catena nel comune di Vairano, quindi in un altro posto. A Teano invece si sarebbero separati, cioè avrebbero poi fatto un pezzo di strada assieme e poi da lì si sarebbero separati. Quindi l'incontro che abbiamo imparato a chiamare di Teano in realtà andrebbe chiamato l'incontro di Vairano. Un'altra curiosità è che tra i famosi 1000 della spedizione garibaldina, quindi restiamo perfettamente in tema con quanto dicevamo in precedenza, c'era anche una donna. Tra i 1000 appunto sbarcati a Marsala, segnala Focus Storia, c'era anche una donna che si chiamava Rosalia Mommasson. Era la moglie di Francesco Crispi, organizzatore della spedizione. La signora era nata in Savoia, attualmente si trova in territorio francese, aveva conosciuto Crispi mentre questo signore, che era siciliano, era in esilio. Crispi poi diventò anche deputato nel 1861 dopo l'unità e diventò anche presidente del Consiglio. Chiese al marito di partecipare alla spedizione dei 1000, il marito si oppose, allora lei si vestì da uomo, si arruolò naturalmente nascondendo il suo genere, al tempo le donne non facevano assolutamente parte dell'esercito, si travestì quindi, si arruolò di nascosto e, segnala sempre Focus, combatté anche a Calatafimi. Il lato meno romantico di questa storia è che il marito non gradì affatto lo stratagemma, non gradì la partecipazione e infatti poi si trovò successivamente un'altra donna, Rosalia lo lasciò, i due si lasciarono, lei morì pressoché dimenticata a Roma nel 1904. Dalla storia d'Italia al presente d'Italia. Il presente d'Italia è quello che il Sole 24 Ore ha raccontato in queste settimane con un'inchiesta che è stata intitolata L'Italia che non cresce, cioè i vari motivi che ostacolano la crescita italiana, anche l'aggancio dell'Italia, da parte dell'Italia, alla ripresa in atto in altri paesi del mondo, all'uscita dalla crisi in corso in altri paesi del mondo. Ecco, trovate tutte queste puntate e molti altri approfondimenti in un volume che daremo da domani in edicola, in vendita appunto con il nostro quotidiano. Raccoglie le 20 puntate d'Italia che non cresce, nel corso delle quali sono state esaminate le cause di questa mancata crescita, dalla fiscalità eccessiva, dal problema della gestione dell'energia, ai problemi del mezzogiorno, ai problemi della giustizia, specialmente della giustizia civile, che di fatto da noi ha tempi e modalità tali da impedire che il cittadino possa confidare davvero nei tribunali per ottenere giustizia rapidamente. Ecco, tutti questi articoli sono stati raccolti, ripeto, in un volume che verrà presentato da domani. Il volume contiene anche molte parti naturalmente inedite, con i vari approfondimenti condotti dalle firme appunto del Sole 24 Ore. Ricorda il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, nella sua introduzione, la crisi globale è il frutto amaro delle dissipatezze della finanza anglosassone, non ne siamo usciti del tutto, purtroppo non mancano neppure i segnali di un ritorno agli eccessi di prima. È quindi vero che l'Italia e la sua economia reale pagano un conto salato per l'esplosione dei debiti privati americani e inglesi. Ma questo nuovo peso si aggiunge al dato di fatto che il nostro paese deve convivere con un suo specialissimo fardello, un'eredità di decenni di ritardi e distorsioni che si traduce in 70 e passa miliardi da pagare ogni anno per collocare sul mercato i titoli del nostro debito pubblico. I vizi e le debolezze, anche culturali, che sono all'origine di quel debito pubblico delimitano il perimetro attuale della grande malattia italiana. E di com'è il nostro paese parla anche l'ambasciatore statunitense Thorne, intervistato da Wired. Wired, come sapete, mensile che si occupa di tecnologia, di nuova tecnologia, di applicazioni, come dire, futuribili. Ecco, ha intervistato l'ambasciatore David Thorne, che è ambasciatore a Roma dal 2009, ma in realtà conosce molto bene il nostro paese perché già ci viveva con il padre negli anni 50. Devo dire che l'ambasciatore Thorne sembra però essersi fatto un'idea del nostro paese abbastanza, come dire, stereotipata e forse non così profonda. Magari il volume L'Italia che non cresce potremmo anche segnalarglielo per fare un utile approfondimento. L'intervista comunque è condotta da Luca Sofri, la trovate su Wired di questo mese. Gli chiedono: l'economia digitale è un settore che può lanciare nuovi sviluppi anche in Italia? Lui dice: come se lo è, la digital economy è vitale per il futuro di ogni paese del mondo, ma in Italia in particolare per un motivo, che qui sembra che la classe dirigente non se ne accorga, e invece è l'unica strada per risvegliare il potenziale italiano. Penso sia un peccato che chi governa non riconosca l'importanza dell'economia digitale. Perché questo non accade, secondo lei? Dice: è una questione complessa, perché l'Italia deve riguadagnare attenzione nei confronti della meritocrazia e poi deve rinnovare le sue classi dirigenti, deve capire che i giovani e le donne sono importanti, che un'attenzione nei confronti dei cambiamenti è importante, e deve ripensare il suo sistema educativo. E qui appunto Thorne sembra un po' legarsi a cose che sono in parte note ma in parte forse anche più di fama che reali. Dice: la mia impressione è che le università italiane siano dei parcheggi che non preparano al mondo del lavoro. I ragazzi non sono costretti a finire in tempo, lo Stato paga i loro studi e non ci sono opportunità quando finiscono. Se non si investe nello sviluppo di innovazione, nella costruzione di un rapporto dinamico tra l'università e il mondo esterno, bene, questo può essere poi deleterio per lo sviluppo. Lo incalza Luca Sofri, che gli chiede: vede che allora ci sono delle peculiarità italiane? E dice: sì, perché l'Italia, risponde l'ambasciatore statunitense, è un paese storicamente conservatore, abituato a una cultura difensiva. Quella cultura di resistenza al nuovo è profondamente radicata qui e lo si può capire: avete un patrimonio straordinario e siete costretti a proteggerlo. Questa è l'immagine che si è fatta un po' l'ambasciatore statunitense David Thorne, dal 2009 ambasciatore statunitense in Italia, a Roma, ma ripeto, conoscitore profondo della realtà italiana, perché appunto già risiedeva qui da noi con il padre negli anni 50. In realtà l'Italia sta cambiando rapidamente, con buona pace anche forse dell'ambasciatore Thorne. Ad esempio, da famiglia cristiana, i corsi prematrimoniali adesso si fanno anche in comune, i corsi per fidanzati, come preferiscono chiamarli spesso le parrocchie, si fanno anche in comune, perché anche gli stessi comuni, effettivamente di qualsiasi colore siano, si vanno via via rendendo conto che questo numero così elevato di famiglie, di coppie che si separano, forse non è poi alla fine una così ottima notizia. E quindi dal comune di Venezia a quello di Trento, ad altri comuni ancora, fanno degli incontri più che altro per spiegare quali sono i diritti e i doveri anche del codice civile, non solo quelli religiosi naturalmente, ma soprattutto quelli del codice civile, nelle coppie, nel formare una coppia, nel formare una famiglia. Lo trovate appunto su Famiglia Cristiana di questa settimana. L'inchiesta è fatta da Stefano Stimamiglio e Alberto Laggia. Magazine 24. Allora, bentornati a Magazine 24. Intanto mi hanno ricordato, mentre voi ascoltavate le informazioni sul traffico, preziosamente Anita Panizza, che come sapete mi aiuta a preparare questo programma, mi ha ricordato che oggi è la festa della mamma, quindi intanto facciamo anche gli auguri a tutte le mamme che ci ascoltano. La festa della mamma, devo dire, non ha avuto poi un grande seguito sui settimanali che abbiamo visto in questi giorni, preparando appunto questa puntata. Ci sono diverse associazioni, diverse onlus che si sono fatte avanti, hanno trovato qualche spazio in pagina per il sostegno magari a mamme in difficoltà, non solo nel nostro paese, più spesso in paesi più poveri del nostro, e appunto hanno cercato di approfittare di questa ricorrenza della festa della mamma per una maggiore visibilità, per sollecitare magari le nostre donazioni. Noi invece dai settimanali in edicola traiamo ancora qualche indicazione. Vi parlerò ancora per poco davvero del matrimonio tra William e Kate, il Royal Wedding. Ne abbiamo parlato molto, ma davvero perché molto ne hanno parlato i settimanali e quindi sono diventati un po' difficili da scrivere. A un certo punto ci siamo arresi. Ci torniamo con un breve contributo di Giuliana Parabiago, che sta su Vanity Fair di questa settimana. Giuliana Parabiago è il direttore di Vogue Sposa e Vanity Fair le ha chiesto di giudicare cosa è andato bene e cosa non è andato bene nel matrimonio, nel Royal Wedding tra William appunto e Kate Middleton. Allora dice lei, in un box molto breve, dice: è da dimenticare la damigella, e con questo si schiera diciamo contro molti dei telespettatori, specialmente dei telespettatori uomini, Filippa detta Pippa Middleton, perché dice: soprattutto quando è avvenente vestita di bianco fa concorrenza alla sposa. Questo è un insegnamento che sappiamo e che viene ribadito dal direttore di Vogue Sposa Giuliana Parabiago su Vanity Fair. Poi sempre lei, durante la cerimonia, ha sollevato lo strascico troppo in alto. Se questa mossa avviene in modo maldestro, può rivelare intimità che devono rimanere nascoste. Poi non andava bene il bouquet deve essere proporzionato alla dimensione dell'abito e all'altezza della sposa. Quello di Kate era troppo mignon e l'impugnatura era quindi misera. Invece le cose che sono andate bene, le cose da ricordare del Royal Wedding: se la cerimonia e la festa non sono consecutive, ci si può, si deve cambiare di abito. L'eleganza del gesto con cui Kate è uscita indenne dall'auto, senza movimenti goffi né strappi, è, come sappiamo, un'uscita sempre molto temuta dai personaggi pubblici. Il giro in auto è ugualmente, secondo il giudizio di Vogue Sposa, il direttore di Vogue Sposa, un momento da ricordare, con attaccati i palloncini, però non i barattoli, ricorda sempre, e il velo corto che anche con un abito solenne vola, dice, e fa un effetto nuvola. Infine una curiosità che viene appunto notata: Kate è entrata in chiesa stando alla destra di suo padre, noi invece entriamo a sinistra. Dice: sarà forse per questo che continuiamo a guidare noi e gli inglesi su corsie opposte? E non sappiamo se sia questo un altro segno della diversità con cui gli inglesi, i sudditi di Sua Maestà, vogliono sempre un po' marcare la loro diversità. Appunto guidano all'opposto di quello che fanno i continentali, di quello che facciamo noi continentali, ma non hanno voluto neppure entrare nell'euro, come sappiamo, e altre diversità di cui peraltro vanno molto fieri. Io cambierei completamente argomento invece, passando a una segnalazione di tipo economico che ho trovato in un modo un po' inatteso su Sorrisi e Canzoni TV, perché Sorrisi e Canzoni TV ci segnala che sta crescendo molto il fenomeno delle televendite, i canali di televendita, complice anche il passaggio che sta avvenendo regione dopo regione al digitale terrestre. Stanno aumentando questi canali di televendita e stanno uscendo magari da una certa dimensione artigianale alla quale eravamo abituati con i canali iniziali, con le proposte iniziali, che resistono naturalmente, ma sempre più confinate, sempre più assediate diciamo da proposte più complesse. C'è questa nuova rete Mi, naturalmente Sorrisi e Canzoni la cita anche per dovere di scuderia, è dedicata all'e-commerce delle grandi marche, ha sostituito Media Shopping su un certo canale di digitale terrestre. Tra l'altro questa rete aveva prodotto nel 2010 61 milioni di ricavi, confermando sostanzialmente il dato del 2009, anzi leggermente incrementandolo. In una fase di consumi comunque fermi o stagnanti, è un segnale che va considerato in modo positivo. Ma ci sono altri competitor che arrivano, altri concorrenti. Adesso c'è QVC, sempre sul digitale terrestre, conta globalmente su 10 milioni e mezzo di clienti e ha un fatturato di 7,5 miliardi di dollari. Anche il cambio sfavorevole attuale fanno 5 miliardi di euro circa. È presente da settembre nel nostro paese e ha investito in Italia 65 milioni di euro, ha assunto 400 persone. Intende arrivare nelle case di tutti gli italiani entro il 2012 con 17 ore di diretta dedicate alle vendite. E poi a giugno arriverà un altro concorrente, un altro protagonista di questo mercato delle televendite, il tedesco HSE24, che intende proporsi con un mix di shopping e intrattenimento. In realtà HSE era già stato in Italia dal 2000 al 2005, ma poi aveva preferito cedere il canale a Mediaset. Spiega appunto Sorrisi e Canzoni: per tutte queste emittenti il denominatore comune è il cambio di stile, non ci sono strilli, pugni sul tavolo, ci sono venditori che conoscono i prodotti, li spiegano in modo pacato, a volte con l'ausilio di un esperto. Questo è un fenomeno che sta appunto crescendo, quello delle televendite, e lo segnala Sorrisi e Canzoni TV di questa settimana. Allora, visto che stiamo concludendo in un modo un po' più leggero, vi voglio segnalare ancora due cose. Primo, da Panorama si avvicina l'anniversario di Bob Marley. 30 anni dalla scomparsa di Bob Marley, il mitico interprete della musica reggae, colui che ha portato a fama mondiale la musica reggae, avviando poi anche, spianando la strada a tutti i suoi successori. Appunto morì il 23 di maggio del 1981. E a lui saranno dedicate diverse celebrazioni, tra cui appunto l'immancabile uscita di dischi che ripropongono le sue opere, le sue canzoni, e la storia un po' di Bob Marley è raccontata in breve da Gianni Poglio su Panorama di questa settimana. E per chiudere un consiglio a cui vi voglio rinviare, sta su Donna Moderna la rubrica Lento Veloce, due persone appunto che danno consigli proveniendo da due punti di vista su uno stesso tema. I due sono sempre Maurizio Ferraris e Roberto Re. Questa volta consigliano alle lettrici di Donna Moderna, e se volete appunto a tutti voi, come difendersi dalle vicine pettegole, quelle che non si fanno mai i fatti loro. Ci sono proprio delle indicazioni per cercare di evitare l'eccessiva invadenza dei vicini. Siccome può sempre capitare di avere un vicino pettegolo, vi dico che Roberto Re consiglia di comportarsi in modo rispettoso ma di prendere le distanze. E poi un escamotage: chiedete un aiuto pratico, mi puoi dare una mano, è la frase magica da usare. Meglio evitare invece, anzi va evitato assolutamente, chiedere consigli, perché il rischio è che se poi non seguite i consigli, allora la vicina pettegola prenda questo fatto sul personale e si vendichi facendo sapere a tutti quanto state sbagliando perché non le date retta. E con questo consiglio concludiamo la puntata di oggi di Magazine 24. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Pietro Lacorte anche questa mattina in regia. Se volete seguire il nostro programma anche via internet, potete collegarvi sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Lì trovate anche le informazioni su tutti i programmi della radio. E se volete scriverci, Magazine 24 @radio24.it. Buona domenica a tutti.